7. Ascolta e controlla. 1. Chi avete incontrato in piazza? Abbiamo incontrato degli amici stranieri. 2. Dove hai lasciato l'auto? Ho lasciato l'auto al parcheggio. 3. Ieri hanno bevuto molto? Devo dire che hanno bevuto molto. 4. Che cosa ha venduto Maria? Maria ha venduto la sua vecchia auto. 5. Ieri tu che cosa hai dovuto fare? Ho dovuto aiutare mio padre in giardino. 6. Lui ha potuto finire il lavoro? No, non ha potuto finire il lavoro. 7. Che cosa avete visto ieri alla TV? Abbiamo visto una bella commedia. 8. Voi avete già ordinato il dolce? Sì, abbiamo già ordinato dolce e caffè. 9. Chi ha salutato Paolo? Lui ha salutato tutti i presenti. 10. A chi hanno telefonato i tuoi amici? I miei amici hanno telefonato all'ufficio informazioni.